in primo piano. Buongiorno a tutti. I giornali di oggi danno ampio risalto alla cronaca dell'Assemblea annuale della Confindustria e danno conto sia del forte appello ad accelerare sulla strada delle riforme lanciato ieri dalla presidente Emma Marcegaglia, sia delle parole del presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, che ha usato toni forti, toni da campagna elettorale. Vi leggo un pochino di titoli. Allora, il Sole 24 Ore, riforme subito per battere la crisi, Occhiello, l'Assemblea Confindustria, la presidente Emma Marcegaglia invita il governo a usare l'ampio consenso, le banche sostengano le imprese. Sommario, Berlusconi, sarà difficile con un Parlamento pletorico, giudici estremisti. Il Corriere della Sera apre Marcegaglia, le riforme, il governo, le faremo, e poi il titolo centrale, doppio attacco del Premier, giudici estremisti, camere pletoriche e dannose. La Repubblica apre Berlusconi contro giudici e camere. Occhiello, show a Confindustria, magistrati estremisti, poi chiama Avelina la presidente, lei replica, sono una donna seria, Franceschini, si crede Napoleone. Il sommario, bastano 100 deputati, Fini lo critica, Marcegaglia faccia le riforme. Libero, Berlusconi abolisce la casta, parlamentari inutili. Sommario, il premier all'attacco, camere pletoriche, basterebbero solo 100 eletti, come nel congresso USA, Fini replica, rispetti le istituzioni, ma Silvio dice quel che la gente pensa. Il Messaggero, camere e toghe, l'affondo del premier, in Occhiello Berlusconi, basterebbero 100 deputati, sentenze per tutti al 50%, di condanna, ma al Consiglio Superiore della Magistratura si scende al 5%. Sommario, Fini rivendica il ruolo del Parlamento, non è né pletorico né inutile. Ecco, vorrei a questo punto leggervi l'editoriale del Corriere della Sera di Dario Di Vico, si chiama L'ora di usare il consenso. Nelle società complesse il consenso è visto come un bene inestimabile. In contesti come quelli dei grandi paesi occidentali, gli interessi e i valori sono atomizzati ed è più facile che ad emergere siano le linee di frattura piuttosto che le iniziative di ricomposizione. Chi governa e gode, come è fortunatamente il caso italiano, di largo consenso, oltre a congratularsi con se stesso per le proprie capacità, finisce però per contrarre un obbligo. Prima o poi quel capitale lo deve spendere e il consenso è chiamato alla prova dell'efficacia. Se la politica tende a dimenticarlo, magari solo per eccesso di cautela, qualcuno all'interno della società presto o tardi si incarica di ricordarglielo. Ed è proprio quanto sta accadendo da noi. Ieri Emma Marcegaglia, rivolgendosi direttamente al premier Silvio Berlusconi, seduto davanti a lei in occasione dell'annuale Assemblea degli Industriali, lo ha esplicitamente invitato a mettere a frutto la sua larga popolarità. Usi quel patrimonio per le riforme che sono necessarie, ha scandito. Questa è l'ora di farle. Per una singolare coincidenza, ieri a Roma era riunito il congresso della CISL e anche da quella sala la richiesta fatta al governo è stata pressoché la stessa. Serve un cambio di passo. E poi prosegue Dario Di Vico. Del resto tutta la relazione della Marcegaglia rifletteva uno stato d'animo largamente presente tra gli imprenditori, soprattutto piccoli e medi, ormai indispettiti da troppe promesse formulate e mai mantenute. Dai clamorosi ritardi nei pagamenti della pubblica amministrazione fino ai fondi fantasma per la ricerca, il cahier de doléances degli industriali si va pericolosamente riempiendo. I soldi veri, promessi da Palazzo Chigi a suo tempo, sono purtroppo rimasti sulla carta e pur avendo la Marcegaglia ampiamente riconosciuto i meriti dei singoli ministri, non poteva dimenticarlo. A spingere verso un cambio di passo, scrive ancora Di Vico, è anche l'evoluzione relativamente positiva della crisi. E ricorda che appunto quasi tutti gli indicatori inducono a pensare che il peggio sia ormai quasi alle spalle. E conclude: meglio quindi utilizzare la disponibilità che Confindustria e CISL hanno manifestato e mettere in agenda una seppur graduale riforma del sistema previdenziale, un'ipotesi che sembra non essere esclusa ora dallo stesso Tremonti. Intanto registriamo con piacere che da ieri, grazie alla Marcegaglia, dirsi riformista è tornato ad essere un titolo di merito, dice Dario Di Vico sul Corriere della Sera. Sul versante più strettamente politico, io vi leggerei dei passaggi del punto di Stefano Folli, il discorso contro tutti che il Premier voleva fare alle Camere. C'erano due Berlusconi ieri sul palco dell'Assemblea Confindustriale. Uno era il Berlusconi imprenditore, concreto e capace come sempre di entrare in sintonia con la platea, di spronarla alla speranza. E cita: nei momenti difficili solo chi ha coraggio vince, chi ha paura perde. L'altro era il Berlusconi politico, il presidente del Consiglio colpito dalla sentenza Mills, incalzato dalle ombre della vicenda di Noemi, tutt'altro che chiarita, anzi alimentata dalle rivelazioni di Repubblica. Era un Berlusconi senza freni, carico di ira, desideroso di rovesciare il tavolo. Inutile dire che, tra i due, il secondo ha travolto il primo, finendo per esasperare la tensione che si respira nei palazzi romani. Niente di nuovo, si dirà. Sono anni che il Premier e i magistrati mettono in scena il loro duello, anni che il Presidente del Consiglio cattura le simpatie dei suoi ascoltatori con le stesse parole e le stesse allusioni. Devo comunicare la mia indignazione, perché quando queste cose capitano a Berlusconi, lui ha le spalle larghe, ma se succedono a un cittadino normale possono rovinargli la vita. È ancora una citazione dell'intervento del Presidente del Consiglio. I cittadini normali, prosegue Folli, finora hanno creduto in lui, lo considerano uno scudo protettivo irrinunciabile. I sondaggi, a quanto pare, garantiscono che non c'è nessun Mills e nessuna Noemi in grado di frenare il successo delle liste berlusconiane alle europee. E anche questo era prevedibile, considerato lo stato in cui versa l'opposizione. Resta il fatto che lo spettacolo andato in scena ieri a Roma aveva qualcosa di surreale. Un presidente del Consiglio a cui era stato posto in maniera stringente il tema delle riforme, cioè di quale sbocco dare al grande consenso raccolto nel paese, rispondeva con invettiva a tutto campo. Ecco, fin qui l'articolo di Stefano Folli. Ma sui giornali ci sono anche molte questioni di look. Allora, c'è la questione della velina, cioè la battuta che ha fatto Silvio Berlusconi, raccontata a pagina 5 del 24 ore. Botta e risposta. Silvio Berlusconi sale sul palco e la butta subito sullo scherzo. Mercoledì sera ha bussato un commesso a Palazzo Chigi per dirmi: c'è di là una velina. E invece era la presidente Marcegaglia, in grandissima forma, elegantissima, perché aveva una cena. Sembrava volasse sui tappeti. Emma Marcegaglia, la sera prima dell'assemblea, in effetti si è vista per un'ora col presidente del Consiglio. Un gesto di cortesia prima dell'appuntamento annuale di Confindustria. Da quando sono scoppiate le polemiche sulle veline delle liste elettorali al Parlamento europeo, il Presidente del Consiglio non perde l'occasione per stemperare l'argomento. Così ha fatto ieri. Solo che, garbatamente, la Marcegaglia ha fatto capire di non aver gradito troppo. La risposta è arrivata dal congresso della CISL, dove ha parlato nel pomeriggio. Non ho niente contro le veline. Normalmente sono belle ragazze. E quando una supera i 40 anni, dirle che assomiglia a una velina è una bella cosa. Però ha anche aggiunto: francamente, preferisco quello che mi ha detto accogliendomi il segretario generale della CISL, Raffaele Bonanni, cioè che sono una persona seria, libera e concreta. Ecco, quindi, e un'altra questione di look viene riportata su Repubblica, che mette in prima pagina la foto del presidente del Consiglio Berlusconi, il quale nasconde dietro al fazzoletto per tergersi il sudore il piumino della Cipria. Scrive Sebastiano Messina: l'uomo che mise una calza davanti alla telecamera per rendere più seducente la propria discesa in campo, l'uomo che a 70 anni si è fatto ricrescere i capelli, l'uomo che ha sempre negato di usare le scarpe con tacco interno, ieri si è fatto cogliere sul fatto, non da un PM inquisitore o da un giudice rivoluzionario, ma da una fotografa dell'Associated Press, Alessandra Tarantino, che appostandosi alle spalle di Berlusconi lo ha immortalato mentre si truccava di nascosto. ovvero mentre, fingendo di asciugarsi il sudore col fazzoletto, si passava sul naso un disco di cipria color carne, terra di Siena la chiamano le signore, per essere più bello davanti alle telecamere. In altre parole, ha usato un trucco per usare il trucco. Dopodiché si è alzato e ha chiesto la decimazione di un parlamento pletorico. Purché un uomo non sia pazzo, si può guarirlo di ogni follia, tranne la vanità, diceva Rousseau. Ma forse, conclude Sebastiano Messina, era un ottimista. Mi devo interrompere, cedo la linea al traffico. In primo piano. Eccoci di nuovo qui. Dunque, vorrei leggervi dal Riformista l'articolo di Marco Ferrante, dedicato appunto all'Assemblea della Confindustria. Altro che velina, Emma chiede riforme subito. Scrive Ferrante: «I rapporti tra la Confindustria e Silvio Berlusconi sono stati un elemento centrale dell'Assemblea degli Industriali ieri. Sono rapporti complessi. Berlusconi è simpatico con la pancia del sistema imprenditoriale, che lo sente suo. Ma proprio per questo gli imprenditori si aspetterebbero dal Presidente del Consiglio più attenzioni. La Presidente di Confindustria, Emma Marcegaglia, attenta al consenso interno, sa qual è lo stato d'animo dei suoi rispetto a Berlusconi». Per questo, nella relazione di chiusura del suo primo anno di presidenza, da una parte ha abblandito il governo, osservando i buoni risultati dell'azione del ministro dell'istruzione Maria Stella Gelmini, gli stimoli del libro bianco sul welfare di Maurizio Sacconi, o richiamando con un applauso lunghissimo per Renato Brunetta, che è adorato dalla base confindustriale. Dall'altra, ha posto tre questioni su cui il governo ha idee diverse da quelle confindustriali. Marcegaglia ha chiesto di approfittare della crisi per fare le riforme, ha chiesto risorse disponibili subito e uno sforzo sul tema dei crediti delle imprese verso la pubblica amministrazione. Su questo ultimo punto ha incassato l'applauso più forte della platea. Ha anche ricordato che quest'anno in alcuni grandi paesi il PIL potrebbe cadere del 6%. E noi siamo a meno 5,9% nel primo trimestre. A giudicare dalle reazioni degli esponenti del sistema economico e finanziario, il tono della relazione è stato apprezzato, perché chi ritiene che in questa fase gli spazi di dissenso nei confronti del governo si stiano restringendo anche a causa dell'indebolimento dell'opposizione, per costoro una critica equilibrata rappresenta già un fatto positivo. Ecco, e poi conclude l'articolo di Marco Ferrante, che appunto entra prima nel merito delle varie posizioni esternate dai partiti, e poi per atterrare sulla sostanziale sintonia che esiste tra l'analisi della Confindustria e quella della Banca d'Italia. E scrive Ferrante: sulle linee di politica economica e non sulla questione bancaria, negli ultimi anni c'è stata una visione comune tra la Confindustria e la Banca d'Italia. La richiesta di Emma Marcegaglia di procedere subito con le riforme riecheggia alcune delle ultime uscite del governatore della Banca d'Italia. Nella relazione del capo degli industriali, così come in generale nelle analisi dei vertici dello staff confindustriale, ci sono altre consonanze con le idee del governatore, per esempio la necessità di riprendere le liberalizzazioni o l'innalzamento dell'età pensionabile. Tra una settimana il quadro sarà più chiaro. Venerdì 29 Draghi leggerà le sue considerazioni finali e si capirà meglio l'assetto della triangolazione dei rapporti tra la Banca Centrale, l'Associazione degli Imprenditori e il Ministero dell'Economia. Ecco, fin qui l'articolo di Marco Ferrante. Sul Messaggero Luca Cifoni dà conto dell'intervento di Tremonti al congresso della CISL. Tremonti, a ottobre catastrofe sfiorata, gli interventi quando sarà il momento. Il ministro alla CISL, discuteremo con voi, ora pensate alla crisi. Scrive Cifoni: le riforme chieste da Emma Marcegaglia il governo intende farle, ma non subito. C'è un tempo per gestire la crisi e uno per fare le riforme, ha detto Giulio Tremonti riecheggiando il Vecchio Testamento. E quando quel tempo arriverà, i cambiamenti saranno messi a punto insieme alle parti sociali, a partire proprio dalla CISL. Questo è il messaggio principale del ministro dell'economia, che in sintonia con Berlusconi ha voluto sottolineare gli aspetti psicologici della crisi in atto, ricordando che nell'ottobre dello scorso anno è stata sfiorata la catastrofe. La valutazione sullo stato dell'economia non coincide con quella esposta dalla Marcegaglia, sottolinea Cifoni. La numero uno degli imprenditori ritiene che in assenza di riforme il nostro PIL continuerà a marciare anche dopo la fine della crisi al passo stentato di questo decennio. Per il ministro, invece, l'esecutivo ha fatto il proprio dovere e comunque il calo dell'economia reale misurata in termini di prodotto interno lordo non corrisponde a una riduzione del tenore di vita. Il nemico da combattere semmai è la paura, quella tristezza che Tremonti classifica come ottavo vizio capitale. Tremonti ha ricordato Roosevelt e, pur avvertendo che non intende certo minimizzare la situazione, ha spiegato che l'eccesso di messaggi negativi produce risultati negativi. Su Repubblica troviamo un aggiornamento a pagina 10 della crisi dell'auto. L'articolo è intitolato Fiat separa l'auto, una newco in borsa, Opel, Lender e GM preferiscono Magna. Montezemolo, degli stabilimenti italiani discuteremo a bocce ferme. Scrive Paolo Griseri: 3 giorni per convincere il governo tedesco che l'offerta del lingotto è la migliore e per rispondere alle indiscrezioni della stampa germanica, secondo le quali esisterebbe un non meglio precisato documento segreto che circolerebbe tra i manager General Motors, non si capisce se a Detroit o in Germania, che avrebbero dato i voti alle 3 proposte, relegando la Fiat all'ultimo posto e preferendo su tutte le profferte degli austro-canadesi di Magna. Sergio Marchionne deve riuscire nell'impresa di risalire la china degli indici di gradimento prima di lunedì, quando, promette il ministro dell'economia di Berlino, l'esecutivo presenterà alla cancelleria la prima valutazione delle offerte presentate per Opel. Ecco, io ho finito la mia lettura, vi volevo ricordare solo un'altra notizia economica, che è quella a rischio il rating inglese, le borse cedono il 2-3%, che è riportata sulla prima del Sole 24 Ore. La mia settimana con voi è terminata, mi dispiace molto, spero di risentirci presto. A te la linea, Alessandro.